Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. Nella lettera di Nodier vi erano notizie degli affari che egli aveva intrapreso a Napoli e che procedevano assai bene, mentre la città, per quanti divertimenti e piacevolezze offrisse, per lui non andavano più tanto e meditava di venirne via per almeno un po' di tempo, nella nostra cara Liegi che non dimentico. In realtà, una delusione per Nodier veniva proprio dai loro amici, che all'inizio erano stati la ragione prima della sua entusiastica scelta di Napoli. Per il bimbo, osservava, grande gioia, ma per il resto più di qualche ombra. Nessun vero e profondo disaccordo, certo, ma un'antipatia dei caratteri, una cosa sottile, caro principe, divide quei due. Ovviamente l'educazione di Babà è alla base di ogni questione, ma anche l'avversione sempre più manifesta di donna Elmina per l'arte del marito, che ella non giudica mai, vi ha la sua parte. Ed ella non potrebbe dir meglio ciò che ne pensa, così come fa con un semplice staccare lo sguardo dalle opere di lui, se per avventura le accade di posarlo su un naso o una spalla di quelle testine. Non approva l'arte, ora mi è ben chiaro, né la cultura in genere, e in questo è divinamente borbonica, solo le virtù domestiche e familiari. E ritornando a quanto dissi più su, ella è una perfetta madre, ma quanto poco interesse emana da lei, Ingmar mio caro, per la sua creatura. Non li vedevo da vari mesi, e proprio ieri, tornando per una visita alla casetta di Sant'Antonio, molto luminosa, devo dire, per quanto, caso strano, trattandosi di due giovani innamorati supremamente disadorna, tornando, come ti dicevo, a visitarli, mi sono reso conto di qualche cosa che prima mi era sempre sfuggita, e questo qualcosa mi ha turbato. Era sera, il tramonto, per meglio dire. La casa era tutta illuminata di rosa dal sole calante. E Ferrantina, ricorderai l'anziana governante che reggeva l'andamento della casa di Don Mariano al pallonetto e appena poteva si ritirava come un pipistrello in cucina, non mi era mai andata e mai mi andrà. Ferrantina entrò dunque con un lume nella stanza per annunciare che il pranzo era servito. Ora seguimi. Mentre ciò diceva l'anziana governante delle bambine di un tempo, se non pure di Don Mariano, come a volte sarei portato a credere data la sua grande età, ma adesso è quasi bionda, mentre ciò diceva Madame Ferrantina, la signora Dupré, che in questi tempi un po' più pallida e indossava lo stesso abito rosa di quella deliziosa sera del nostro arrivo al pallonetto, la signora Dupré, dunque, sedeva presso la finestra cucendo un giubbettino per Babà. Udite queste parole, subito si alzò e gettò un'occhiata dolce ma severa al nostro Albert, il quale, seduto presso la culla, si gingillava col guaglione, così chiamano a Napoli burlescamente anche i piccini di un anno. Questi, in piedi nella culla, sporgendosi come a un davanzale sull'orlo di quel grosso cesto, tendeva le mani verso la gabbietta del cardillo, dono mirabile che tu mandasti in segno di riconciliazione per le nozze già versate, ricordi? Ebbene, mentre con una mano il giovane padre stringeva una manuccia di seta di Babà, con l'altra alzava e abbassava velocemente quell'oggetto desiderato davanti al naso del figlio, e il gioco consisteva in questo, che abbassandosi con la gabbietta fin sul naso e il visetto tanto ansioso del ragazzo, inutile dirti che l'uccello all'interno sembrava morto, la macchinetta del suono essendosi rotta, egli, il padre, ripeteva rapidamente, in tono di canto, queste parole. Vola, vola, Luca, dillo e vola, vola, oh. Levando poi via subitamente la gabbietta lontano dalle mani di Babà e in atto così rapido che il bimbo faceva una grande smorfia tra pianto e risata e allora Albert la riabbassava, gliela faceva girare davanti al viso, ripetendo tenerissimamente il grido che sai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ed era questo ritornello, un po' roco, quasi emozionato, che faceva scoppiare a ridere freneticamente fino alle lacrime babà, il quale, rapito dalla gioia, ripeteva col padre «Lucadillo! Lucadillo! Lucadillo!» e poi «Oh, oh, oh, oh!» «Capisci, mio caro?» Piangevano dal gran ridere per queste lacrime che erano nel ritornello. Come ora sai, il bel giocattolo è rotto e l'uccello di suo non emette più una nota, si limita ad abbassare appena la testina sul petto macchiato di rosso, ma loro, quei due, il canto lo hanno imparato. Era, insomma, un momento di strana, di pura gioia, e immagino che nessuno, neppure Sua Maestà, li avrebbe mai interrotti, deliziato da quella scenetta di amor paterno e filiale. Ma lei, Elmina, dopo averli osservati con calma, aveva già richiamato Albert, che non aveva risposto, si accostò alla culla e tolse dalle mani del marito, con cortesia, ma anche con molta energia, la gabbietta scassata, dicendo... «Quante volte ve lo devo ripetere, Albert, che questa gabbietta è già rotta e dovete lasciarla dove l'avete trovata, cioè sul mio comò. La chiavetta si è spezzata». «Scusatemi», fece pronto Albert, «era nello scatolo dei cappelli, non sul vostro comò, perciò mi sono permesso di prenderla». «Io non dico bugie, non era nello scatolo dei cappelli». «Se avesse mentito Albert per fanciullaggine...» «Ma io non ricordo che lo abbia mai fatto da ragazzo, tanto è caro e sincero, o mentisse lei per animosità verso lo sposo, non saprei dire. Purtroppo il bimbo cominciò a urlare come un pazzo, mai sentita, credimi Ingmar, una voce così folle e appassionata, ma il piccolo adora suo padre, mentre per lui Elmina è un po' una nemica, e a dimenarsi e torcersi tutto, e divincolandosi e tremando gridava nel suo ridicolo furore infantile». «Cadillo a babà! Cadillo a babà! Cadillo a babà! Cadillo a babà!» diventando roco e perdendo a momenti la voce dal fuoco che aveva in cuore. «Ma non spaventarti, perché così sono tutti i piccini di quell'età quando li si contrasta freddamente». Senza far conto di sua moglie, Albert lo prese in braccio con un impeto e una compassione, Ingmar mio, che mi sentì rabbrividire e tremai per Elmina. Ma ecco che ella, come si trovasse semplicemente davanti a due piccini da separare mentre litigano, e non davanti al suo nobile e avvenente sposo e al suo tenero figlioletto, toglie con forza il bimbo dalle braccia del padre e lo consegna con calma a Ferrantina. Il nome ti dice quanto quest'anziana, e mi dicono devota serva, sia nel carattere come ferro, prende dalle mani di questa il candeliere e tranquillamente, avviandosi verso la scala, fa. «E speriamo che la lezione vi è servita», senza badare, come vedi, al congiuntivo. Andammo a tavola poco dopo, e ancora si sentiva babà gridare da una stanzetta di sopra e la voce roca della vecchia cercare di calmarlo. Gli occhi mi si riempirono di lacrime ed ebbi l'impressione che quei due, il figlio e il padre, fossero come Dio padre e Gesù bambino. Una bontà unica, sola, indivisibile, con altri, inseparabile. Ma Elmina, tra loro, non è certo lo Spirito Santo. È una creatura, ora me ne accorgo, taciturna e dura. Siamo dolci e venerine, siamo... dice il mare? E di noi chi dice Per la verità, questa intromissione di Nodier, tale almeno per la disposizione d'animo in cui egli Ingmar si trovava dopo il viaggio, questa intromissione del mercante in un piccolo contrasto sorto tra i due sposi, forse per la prima volta, a causa dell'educazione del bimbo, non piacque molto al principe. Vi intravedeva quasi una malevolenza, e tutta pregiudiziale per donna Elmina, che già molti in città, almeno a detta di Nodier, consideravano non proprio la moglie giusta per l'artista, e soprattutto non la donna che avrebbe compreso la sua arte. Riaffioravano, anzi, per lei, titoli sgradevoli di tedesca e strega, ma anche curiosamente giacobina, qualche volta, essendo il popolo, e quello di Napoli non faceva eccezione, nella sua passione per la giustizia, i drammi familiari e le pene di morte, sempre propenso, anzi felice, di esagerare in sospetti e giudizi. Si ritornava a parlare bene della povera donna Helm, vittima di Elmina, senza dimenticarsi della fine, rimasta misteriosa, della piccola Floridia, e così via. E si compiangevano di volta in volta la nonna e il nipote. In realtà, a Napoli, Albert Dupré non mieteva successi, nella sua arte e nei rapporti personali, per un che di troppo, Nodier non sapeva come dire, che vi era in lui, o forse, così interpretò il principe, per qualcosa di meno. In quanto gli era abbastanza nota la propensione degli abitanti del regno di Napoli per tutto ciò che nel vivere e in un carattere vi può essere di giocoso e di superficiale, e che all'inizio pareva una dote di Albert, mentre si era mutata completamente, risiedendo a Napoli, la natura di lui. E quel giovane incantevole e ridente, non per nulla bellerofonte un tempo, si era fatto, specie dopo la perdita del suocero, e tranne per qualche breve periodo di entusiasmo che aveva contrassegnato la nascita di Babà, si era fatto solitario, spesso malinconico, mutevole nell'umore e soprattutto superbo e sarcastico nei giudizi che dava degli altri artisti, e inoltre sempre meno innamorato della moglie. Ciò alla città e agli amici dispiaceva. Tutti, a questo punto, dopo aver prima compatito il marito, ora compiangevano apertamente la moglie per lo stile di vita povera e ritirata che conduceva e che certo era conseguenza della mancanza di interesse da parte di Albert. Vero o falso che fosse questo giudizio, illuminando come faceva l'origine della infelicità nella innegabile freddezza di lei, dispiaceva a Ingmar, che vi intravedeva appunto un'antipatia abbastanza scoperta per donna Elmina. Ma quanto lesse più avanti, passando alla lettera del Ruscaia, doveva preoccuparlo ancora di più. Essa così iniziava. «Rimarresti stupito, caro Ingmar?» Se potessi dare un'occhiata, dopo questo lungo lasso di tempo, ai tuoi protetti di Napoli. Non essendomi più servito della lente, a causa, come forse ricorderai, di una vitina che si era di nuovo staccata dal manico e non sapevo a chi portare per una riparazione non indiscreta, mi rivolsi, per averne notizie, alla mia cara Marchesa Durante, la Marchesa madre, non sua figlia, che non è amica di Elmina, e ti meraviglierai di apprendere quanto ella mi disse. Mi disse praticamente questo. Donna Elmina ha alienato quasi tutta la sua nuova fortuna. Sapevano quindi che la prima era finita con la scomparsa di donna Brigitte, compreso il giardino, cioè il podere in Calabria, e l'appartamento di Chiaia, vendendoli all'insaputa di Albert e ovviamente con una truffa. Artefice o complice, queste dunque le amicizie di donna Elmina, te le raccomando, è stato don Liborio apparente, quel notar Liborio, meglio noto come il Pennarulo, genero inviso a sua maestà Dio guardi, e per questa sola ragione bisognerà essere indulgenti con lui e non dare corso alle voci che circolano sulla parte da lui avuta nella faccenda. Ormai, purtroppo, la cosa è fatta, anche se legalmente, e indietro non si torna. Ad Albert tutta la cosa è stata presentata come una dura necessità a seguito di altri debiti e catastrofi varie venute alla luce ultimamente negli affari del suocero. Fra parentesi, a me la cosa si presenta assai improbabile. I debiti non erano poi tanti e furono sistemati senza sforzi dopo la morte di Don Mariano. Così, rassegnati, fu alienato ogni tuo beneficio e scomparve, credo, ogni tuo dono, tranne, mi dicono, una gabbietta con un canarino o altro uccello tutto d'oro che era stato donato ad Alberta all'epoca in cui era fidanzato. Sbaglierò i particolari, ma la realtà è questa. Smentisci o ne sei al corrente anche tu? Povero Ingmar, una cosa però certo non sai e ti potrà consolare confermando la grande purezza d'animo dei tuoi assistiti o della sola donna Elmina, che non un solo di quella straordinaria fortuna fu trattenuto da donna Elmina per sé e per i suoi, ma, onorati i famosi supposti debiti, l'intero ricavato di tante vendite e cessioni, dal primo all'ultimo scudo, ella passò in donazione a un istituto di carità famoso in Napoli, gli Artigianelli, pensa, e ad altri ospizi o istituti per l'accoglimento e assistenza dei bisognosi, orfani e vecchi in primo luogo. Altra cosa strana è che Albert, conosciuta la fine della sua stessa fortuna, si è mostrato completamente indifferente, quasi ne ricevesse più che preoccupazione, sollievo. E mi si dice che la stessa fine stiano facendo le rendite, i tuoi benefici, mio povero Ingmar, ai poveri, agli orfani, ai perduti, agli ultimi, a tutte le anime perdute o dimenticate di questa città dolorosa. Donde viene? Ora molta gente qui a Napoli si domanda questa generosità contro natura, se non addirittura mostruosa, in una donna giovane, bella, ben maritata, con un figlio, e che monaca non è davvero, e nemmeno, anzi per nulla, dedita a pratiche pie. Donde viene? Se non da una colpa, appunto, inenarrabile, mostruosa, e di cui ella non sopporta il peso se non rinunziando, appena possibile, ad ogni bene e felicità personale. Il folle, posso ben dirlo, suo sposo, non ne ha avvertito un solo momento la stranezza, direi disumanità, se pensi che hanno un figlio. Qui, non vorrei, ma infine perché non dirlo? Qui si mormora, e la calunnia meno infame è che la protegga, o sia protetta, abbia insomma dei vincoli, o parentele nascoste, che hanno chiuso nei loro lacci la sua vita fin da quando era piccina. Forse per la morte della sorella Floridia a lei attribuita? Chi può dire? Ma ella non è libera. Ecco ciò che appare a un vecchio curioso come il tuo Benjamin. Sta di fatto che quei due ora vivono solo del piccolo lascito della madre di Albert e del lavoro di Elmina. E camiciaia, pensa Elmina. E pur senza mostrarsi mai affaticata, lavora alacramente, come un uomo, per una clientela sempre più estesa, procuratale dall'adorante madre, tra le amiche sue e della figlia, che si maritò recentemente con un cavalleggero di sua maestà Dio Guardi. In quella casa, quindi, io mi recai in visita con la vecchia Durante, intendendo commissionare ad Alberto una statua di Hermes per il mio giardino, in quella casa non ci sono più che camicie e braccia di seta, cotone, lino o cos'altro occorra per confezionare le dette perfette camicie da uomo o da fanciullo. La Durante dice che l'abilità raggiunta da Elmina in questo genere di confezioni rasenta il sublime e così pure la sua resistenza al lavoro. Ha assunto, unico lusso, 4 ragazze per le rifiniture, Teresa se ne occupa. In quanto a babà, è affidato adesso alla sola Ferrantina, dato che lo stesso Albert sembra così distratto. Che ne pensi tu, caro Ingmar, di tutto questo? Io non oso pensare nulla. So che, giustamente a mio parere, il povero babà scoppia in pianto quando vede sua madre, ne ha un vero terrore, eppure ella, mi dicono, non lo ha mai sgridato. L'amore di lui è sempre suo padre, quando lo vede ride di gioia e, malgrado adesso parli benino il franco napoletano, ripete come incantato un certo ritornello che finisce in un gemito, dunque, chiamato, sembra, barcarola o pianto del cardillo. Arturo Cirillo ha letto Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it